Un saluto da parte di Max Macchia, mi viene immediatamente da sorridere per una trasmissione che è evidentemente impossibile, ma forse proprio questa è la sfida comunque appunto un caldo saluto. 451, trasmissione impossibile perché torna alla fine dell'anno per la prima volta, quindi già partiamo con un paradosso. Condizioni del sottoscritto sono piuttosto allucinate, ma non per motivi insomma addizionali, addicted insomma dicono gli inglesi, ma per motivi cinematografici. Vabbè, ma quello che insomma è seguire i festival cinematografici, tra l'altro anche qua a Bologna, quindi magari avete capito anche di che festival sto parlando, e poi insomma parlare con voi indirettamente o essere ascoltato, ma poi per molti versi può essere anche di fatto un parlare, magari un parlare fantasmatico, come tante volte appunto 451 frammenti sonori ho detto, e amo dire per evocare insomma Mark Fisher e chi quanti hanno e lavorano ancora sul fantasmatico, ma tant'è che frammenti sonori da un po' di tempo a questa parte e lavora appunto anche su quello, e probabilmente anche fisicamente, come dire, materialmente c'è cioè stata questa fantasmagoria di fatto proprio per un'assenza insomma che non c'è stata, è una apparizione che non so appunto se sarà appunto così confermata, quindi un'apparizione che magari tornerà oppure un'apparizione appunto con una scomparsa poi totale, definitiva, no? Non voglio essere apocalittico, e d'altronde poi questa sera è una sorta di trasmissione anche impossibile perché è legata a un disappunto, a dei disappunti, 451 disappunti, perché disappunti? Perché intanto è la trasmissione che dedico fortemente a Matteo Babe Ferrari, che purtroppo insomma pochi giorni fa se n'è andato, tra l'altro ex anche di Città Fujiko, soprattutto insomma dedicato a insomma, persona di grande curiosità, di un'intelligentissima curiosità che lo portava così appunto a sondare vari territori musicali così anche esistenziali, perché insomma poi insomma si piaceva dire spesso in vari posti bolognesi e non solo, anche se ha fatto anche una bella attraversata oceanica per andare appunto in America e anche andando a trovare quelli che erano dei suoi riferimenti musicali, un grande amante della Vox Trax oltre di varie cose, e un po' insomma è un po' insomma anche questi disappunti di 451 nascono sulla suggestione, ecco, della scomparsa appunto di Matteo Ferrari, appunto conosciuto come Babe. Poi nelle varie impossibilità c'è anche la faccenda che questa sera torna, non so se anche questa in maniera così comparente poi scomparente, Futuri Rumori con Maddie Warris, formazione tra l'altro che conosco bene, ecco, anche a livello personale, quindi insomma sono un po' di cose che poi non vi sto a dire altre cose su di me, ecco, perché non mi pare il caso, e che vanno a infilarsi appunto in una sorta di così di impossibilità, magari mettendo anche questa impossibilità tra la IM, tra IM, tra parentesi, quindi proprio perché insomma impossibile, e qua di fatto nello sperimentare questa impossibilità, quindi forse la sto facendo diventare vagamente anche qua in maniera così appunto non delineata opalescente, ecco un altro termine che spesso ho utilizzato qua, 451 frammenti sonori, e qualche cosa appunto di vagamente possibile, appunto opalescentemente possibile, basta con i termini, basta con le parole. Truman Water, appunto, anche su quello che vi dicevo prima, così un indie noise curioso, è una trasmissione fondamentalmente su un rock che volontariamente o involontariamente sbagliato. Sicuramente quello di Truman's Water è volontariamente sbagliato, nel senso che riescono a essere, sono stati, non esistono da un po' di tempo, talmente così spericolati nel loro rendere brutto e sgraziato, appunto, una faccenda che di per sé invece è particolarmente aggraziata, a volte anche fin troppo, appunto quella legata all'indie rock, qualcosa di zoppicante, qualcosa di cespicante, che ha portato, insomma, anche così a parlare, appunto, con magari un termine che si usava tempo fa e che non è esattamente, insomma, termine felice, perché poi, come molte definizioni, ha lasciato il tempo che ha trovato, e magari qualcuno si è infilato anche per fare un po' di cassa, quello che si chiamava, insomma, lo-fi. Sarà anche per alcuni aspetti una trasmissione legata al lo-fi, e non solo, e anche una trasmissione legata invece a una grande perizia che porta verso invece un rock rumoroso, rumorista anche in alcuni aspetti, ma appunto anche su quello che è l'onda emotiva di cui accennavo prima, e quindi anche la dipartita, insomma, di Matteo Ferrari, che non francamente non so se Babe e Massa di Truman Water, però me l'ha fatti venire in mente, quindi anche un po' dedicato appunto a lui, Truman Water. Per chi non avesse capito, i disappunti vengono anche da una situazione, insomma, che non credo non sia soltanto mia personale, ma anche dato dal periodo storico, insomma, che stiamo vivendo. E quindi non tanto per usare, insomma, parole, ecco, così radiofonicamente proponibili, ecco. E parlo di disappunto, anche perché se non bisognerebbe parlare di ben altro, utilizzare altri termini e soprattutto fare altro, ecco. Ma lo dico, insomma, sempre con una sorta, insomma, di Dalità, che probabilmente ancora riesce a salvarmi, probabilmente anche molti di voi, sì, insomma, dal debacle totale, ecco, dalla depressione caustica che citando, insomma, qualche un altro anche, che magari tornerà in trasmissione, e con appunto la depressione caustica, e quindi, insomma, il disappunto nasce anche da una sonorità che direttamente, in questo senso, utilizziamo il rock, per un certo tipo di rock, insomma, che va verso una sorta di noise, comunque di impatto urticante, seppur, insomma, con gli Insane, che hanno, come dire, soppiantato con suono di chitarre iper, però, insomma, controllate, appunto, in queste schegge rabbiose, appunto, esistenziali, politiche, come, appunto, d'altronde fatto da buona parte, insomma, dell'hardcore americano, da dove provengono, appunto, Insane, poi mischiando, insomma, quella caratteristica noise, rock, che appunto le ha resi anche un gruppo di riferimento, anche, appunto, per quanto riguarda un certo modo di vivere, poi anche appunto, di sperimentare quello un suono nato, appunto, sull'onda del punk, diventato, appunto, hardcore, quindi utilizzando anche tecniche anche micidiali. Dopo ne sentiremo anche alcune veramente incredibilmente micidiali. E continuando, appunto, con Insane, con questi disappunti, sempre su quello che, insomma, è anche un po' quello che accennavo prima, rispetto, appunto, alla suggestione appunto, della scomparsa di Matteo Ferrari, un altro pezzo, appunto, di Insane, tra l'altro, appunto, ascoltati anche l'anno scorso, appunto, proprio a Bologna. Uno degli ultimi concerti, tra l'altro, in cui ho visto proprio, appunto, anche lo stesso Matteo Ferrari. Quindi anche una trade union, insomma, che, come dire, mi è sorto, ecco, decisamente spontaneo. Beh, con Steve Albini, con Nichelle che va da sé, insomma, il disappunto, il carattere, insomma, sempre riottoso. Poi, in effetti, con Albini è una di partita, insomma, che c'è stata, insomma, pochi mesi fa si è perso uno dei grandi guastatori. Tout court, perché se pensiamo sì, a Scella, che potremmo pensare e pensiamo anzi direttamente a un certo modo intendere un certo hardcore che poi è diventato math rock per una tecnica veramente eccezionale, ma se pensiamo a Steve Albini di Big Black andiamo a suo quel con l'incrocio tra cyberpunk e noise rock, quando ancora era difficile anche definirlo appunto tale. Ma poi possiamo anche parlare di Steve Albini, che ha prodotto disco così, quello più difficile sicuramente dei Nirvana, per tante volte, per tanti aspetti catacombale, appunto come in utero, disco poi tra l'altro anche per molti aspetti difficile, proprio per questa sua cupezza, perlomeno legato ovviamente al mondo dei Nirvana, quindi anche a uno Steve Albini pop, seppur con della credine che non mancava di certo neanche nei Nirvana. Capisco che adesso magari la cosa potrebbe sembrare strana, ma tornando insomma così a qualche anno fa, sicuramente c'erano dei forti disappunti anche in Kurt Cobain, e spesso sono venute anche fuori, non magari in maniera così mainstream lì, magari appunto più il suicidio del maledetto, del giovane maledetto, e invece faccende insomma dentro le annali del rock, quindi anche più facilmente digeribile. E poi c'è anche uno Steve Albini invece che addirittura negli anni 90 fa resuscitare White House, William Bennett, e quindi il Power Electronics, se già insomma molto industrial, radicale, beh, Power Electronics di White House, ultra radicale, e quindi di conseguenza insomma non si può che non omaggiare intanto appunto la figura tout court di Steve Albini, e poi questo impeto incredibile appunto legato a sempre un senso di scontro, detta come va detta, con la realtà, che a volte non è neanche caduto tra l'altro nel, come dire, nella doppia negazione che in Italia è negazione, ma all'estero insomma in termini linguistici è invece affermazione, e quindi anche in anglosassone la doppia negazione, quindi di fare l'anticonformista rispetto agli anticonformisti, e quindi poi di passare da un'altra parte. Anche è stato anche capace di questo Steve Albini, quindi anche persona di grande acutezza e intelligenza, anche non soltanto sonora, ma anche in termini di politica, potremmo dire, discografica, che non, tra l'altro non deve essere neanche così semplice appunto, poi, ma tra l'altro essere uno dei produttori di uno dei gruppi più famosi di sempre, insomma, del rock, appunto, come dicevo prima, dell'ultimo appunto periodo di Nirvana. E con Shellac, quindi, e con il pornostar, che appunto è proprio pornostar italiano, lo dice anche insomma nel testo, anche qua giocando così in maniera politicamente scorretta, quando appunto è politicamente scorretto non era faccenda magari trampiana o cose di questo tipo, ma anche giocando insomma uno dei titoli suoi era dedicato alle mutandine di King Gordon anche lì, e qua sono politicamente scorretto anch'io, lo so, insomma citandolo, ecco, ma come dire appunto dentro una una politica di disappunto, perdonatemi, insomma, quantomeno questo. E, altri che poi comunque hanno avuto una fiammata, questi sì, sicuro che ascoltava Babe e come, Helmet, abbiamo varie volte parlato appunto insieme, storica formazione, però appunto per una fiammata poi si diede insomma un suono edulcorato, appunto vinto dalle major, da un suono grunge, insomma, piuttosto alla Page, da Betty in poi, ma i primi Helmet invece, soprattutto il primissimo disco, fanno delle cose veramente radicali in termini appunto di decostruzione del suono, andando su questa capacità anche di creare un post-hardcore che va a impattare con il noise, e soprattutto scopre dei nervi che dentro le musiche rock non ha lineate, c'è sempre stato, poi ovviamente è l'unica cosa, quella scarica elettrica che rende ancora una sorta di non di fantasma, ma proprio di zombie pauroso quando appunto riesce, o di Frankenstein, citando altri disappunti, tra l'altro nostrani, anche italiani, o appunto anche americani, visto che il gioco insomma lo possiamo fare anche con il gruppo Psycho Billy. Quello appunto di elettrificare appunto questo corpo morto, quello del rock and roll, chiamatelo un po' come diavolo vi pare, insomma, visto che anche qua il diavolo c'entra, Remember, insomma, The Blues, beh, senz'altro appunto la scarica elettrica che diedero nel primo disco, Helmet, Strapping On, fu di grossa carica anche appunto eversiva in termini sonori. Se poi ci vogliamo chiedere come è andata a finire, non serve granché, perché me l'ho detto, accennato anche prima, tant'è che appunto pezzi come Sinatra rimangono e rimangono e come. con una risata, finisce tutto con una risata, beh, d'altronde con Gello Biafra, probabilmente insomma una risata che ci seppellirà tutti quanti, quella di Gello Biafra. È voluto fare un sommatorio, così appunto un'addizione, quella di Ministri più Gello Biafra, ovvero Lard, e quindi è venuta insomma da sé questo The Last Temptation of Raid, questo bozzo skeleton, ovvero suoni portati quasi a una sorta di forma punk, nel senso di muro appunto sonoro, come utilizzavano appunto i Ministri, un basso micidiale che ricordava appunto invece la storica band di Gello Biafra, appunto The Kennedys, e tutto appunto unito da una forte iconoclastia, da un forte così malumore e disappunto rispetto alle realtà circostanti di qualche anno fa, ma che evidentemente insomma non a caso insomma ho citato prima il cyberpunk, ma va da sé insomma che con Ministri, se poi facciamo anche il giochino di mettere cyber, poi magari anche che so, staccarlo da punk, quindi anche mettendoci dentro Gello Biafra, beh, troviamo anche un futuro che per molti aspetti si è realizzato, proprio in quell'idea insomma paradossale di no future, future che appunto ha attraversato buone parti delle musiche che appunto stiamo trattando questa sera o questa giornata, questo pomeriggio, insomma quando ascolterete questo 451 frammenti sonori, diciamo che per la diretta insomma si parla di serata, nottata, visto che una cosa che non faccio veramente da millenni è quella di dare l'orario, ma mi sembra insomma una cosa che in questo momento, oltre che essere vintage, potrebbe essere utile insomma per qualcheduno che non ha, così, ha smarrito l'ora. 23:59 comunque, magari con così soggetto alle musiche che stiamo appunto trasmettendo. Se poi di disappunti, di rimandi a musiche insomma ascoltate anche appunto con Matteo Ferrari, Babe e appunto Helmet, sicuramente Ministri, e la Vox Trax, che appunto era l'etichetta di riferimento appunto di Chicago, appunto degli stessi Ministri, un po' ascoltati in versione Lard con più Gello Biafra. Se vogliamo poi avvicinarci a quello che sono i futuri rumori rock, iper rock di questa serata, un altro personaggio che è vissuto e anche crepato tra l'altro con il disappunto, non una finzione, non un poser del rock, ma un appunto che ci ha dato appunto anche l'anima, e l'ha pure persa, come dire, veramente un'anima persa, la lost soul, quella di Jeffrey Lee Pierce con i suoi Gun Club, uno dei pezzi micidiali da Miami, che ci dà appunto anche la cifra della provenienza hardcore di questa formazione straordinaria, perlomeno nei primi tre dischi clamorosi sotto tutti gli effetti. Gun Club quindi con Sleeping in the Blood City. We'll be right back. Beh, Gun Club, formazione straordinaria per molti aspetti, e poi legata appunto a un personaggio leggendario come Jeffrey Lee Pierce, che ha fatto insomma della sua vita un disappunto, un disappunto meravigliosamente sonoro, con quella meraviglia che però proviene veramente dall'essere molto molto radicale rispetto a una materia che per molti aspetti ha perso di radicalità nel corso dei vari decenni, ovvero parlando di rock, ma poi appunto, come vi dicevo prima, elettrificando questo corpo morto si ha ancora la capacità sonora e non solo attitudinale di rimettere in vita e generare nuove mostruosità, nel senso veramente molto molto buono del termine legato a questo. Un po' mi viene da dire come fanno Muddy Waters, che hanno dei chiari riferimenti sia non soltanto nei Gun Club, ma in un certo modo di intendere il rock, perché no, anche il rock and roll, passandolo appunto dal garage, dal punk, e da un modo di intendere questo suono come appunto possibilità di elettrificare questo appunto cadavere eccellente e famosissimo cadavere. Famoso, veramente non più non posso, insomma, che è quello appunto del rock, con questo bel disco appunto Futuri Rumori, anche se poi esistono da un po' di tempo, ma arrivano adesso insomma al loro primo long play, tra l'altro pubblicato come long play, quindi anche in vinile. No Fiction, selezionato da uno dei disco pezzi. Però che appunto si nutre di questo amore per un certo tipo appunto di suono e di attitudini che attraversano insomma di tanto in tanto appunto il rock, senza magari indie prefissi insomma vari, o semmai insomma dei suffissi che possono essere più interessanti, che appunto possono essere legati a un certo modo di intendere appunto il punk garage, e un suono così desertico, schizzoide, che attraversa appunto il disco, pur essendo insomma un po' poco desertici, insomma Bologna, di distanza Bologna non ce n'è poco di deserto, a meno che non parliamo di altri tipi di deserti, ma insomma ci sono città che ne hanno sicuramente di maggiori, se parliamo di deserti sociali, tutto sommato insomma Bologna ancora insomma c'è un barlume ancora di ancora di vita, ecco, e come appunto è vitale questo suono, quella di no Fiction, ma quello in generale di Fucked Up, disco appunto Long Plane di e lo dico la vecchia, così utilizzandolo proprio per quanto riguarda un certo suono, una certa attitudine che appunto pesca da lontano, ma vede appunto un oltre anche rispetto appunto a un semplice ripescaggio, come anche questo, insomma, altri errori di vari che si danno a questa materia, che poi è particolarmente difficile, perlomeno se si vuole essere insomma sì, usiamo un termine non particolarmente originale, che appunto è quello dell'originalità, ma tant'è che insomma forse in questo caso funziona. No Fiction, non c'è finzione qua, Muddy Waters. Get out of the house. my blues. Beh, nei caratteri appunto impossibili di questo 451 mi piaceva, insomma, questa non-fiction funzionava, secondo me, e non soltanto, anzi molto relativamente per questa trasmissione, funziona proprio come Fuck It Up, come appunto lo pezzo dentro un disco, come d'altronde funziona questa funzionalità disappuntata, disfunzionale, ecco appunto, che è legata a quella elettrificazione che vi dicevo, appunto, del corpo morto, zombificato del rock. Anche Eiger Niger, che citandola così mi viene più in mente un altro pezzo degli anni Ottanta che non vi cito perché appunto è brutta la mia pronuncia, quindi mi autodenigrerei. Eiger Niger, forse ho detto un pizzichino meglio, ma tant'è che insomma questo è l'inglese, ma soprattutto è piuttosto questo il suono appunto di Muddy Waters dentro questo Fucking Up. Down. Beh, più tribali, con quel rock, insomma, rantolante, che ricorda appunto quel Muddy, magari, quel Muddy Waters, quel gioco di parole che, anche qua, insomma, andando, come dire, alla radice, appunto, essendo radicali, si va a trovare evidentemente, insomma, quel suono tribaloide, se non addirittura proprio tribale, insomma, senza utilizzare l'oide, che forse non funziona granché, invece in termini proprio di tribalità, di quel blues rurale trasformato, deformato, ecco, poi lì da quello cittadino che appunto con Muddy Waters Muddy Waters e Muddy Waters, quindi appunto facendo questi questo insomma progredire di formazione, appunto non deformazione, del grande bluesman, e ci porta appunto anche in questo senso a tornare un suono radicale, appunto, un suono legato a quella trasformazione evidentemente che ha fatto nascere rock tutto, insomma, quindi il rock and roll intorno alla metà del secolo scorso. E così, insomma, sa anche in maniera altisonante, ma tant'è che, insomma, questo Fuck It Up di Muddy Waters funziona veramente tanto tanto bene. Perdonatemi, insomma, se uso appunto il termine funziona, ma è legato appunto anche proprio, sì, a questo discorso che stiamo facendo questa sera qua, 451 frammenti sonori, legato non soltanto alla Plurale Maiestatis, che insomma mi perdonerete, ma d'altronde, insomma, soggetto che nasce collettivo, quindi poi come dire rimane, insomma, con questa idea in testa da parte del sottoscritto, e forse lo è, insomma, nei vari fantasmi, appunto, anche miei evocati dalle trasmissioni. E come dicevo, appunto, prima, questi disappunti trattati musicalmente, ma non soltanto, anche come attitudini esistenziali, e quella capacità, appunto, di ecco, sì, essere radicali, nel senso, appunto, di andare alla radice della faccenda, faccenda, insomma, piuttosto annosa, però un momento, anche in maniera tra l'altro sperimentale, ci sono riusciti anche exec, tra l'altro passati da Bologna qualche giorno fa, che nei primi dischi, insomma, riuscivano a unire una sorta di mutazione kraut su quel rock, è così, quello in quel caso desertico, che attraversa tra l'altro anche alcune cose di Muddy Waters australiano di certi anni 80, e con appunto derive molto interessanti legate alla kraut, che in alcuni momenti ha anche quella capacità di toccare quel noise rock che, insomma, attraversa buona parte di questo 451 frammenti sonori. Beh, nei primi dischi sicuramente c'è stata questa capacità. L'ultimo disco è un disco di pop legato, insomma, a un'idea di canzone depressiva post-punk, che sicuramente colpirà molti in termini, appunto, anche di pop, nel vero senso della parola, di popolarità. Ma tant'è che torniamo invece al primo disco di Hexec, quando appunto c'è ancora questa capacità, non, forse non smarrita del tutto, probabilmente l'ultimo disco è legato così a una verve, ecco, forse più legata a un suono più diretto in termini appunto di, così, di canzone post-punk depressiva, con tanto insomma di riferimento anche di cantabilità e quindi di pop, ma andando appunto a trovare pezzi come Babi, Giant, Squid, invece appunto si trova quel coicervo strano, disappuntato appunto, in questo senso molto interessante, dei primi ex, speriamo non primi definitivamente tali, ma che magari insomma riescano a riprendere anche quella chiave espressiva che appunto sentirete in questo pezzo, se già non lo conoscete, avete già appunto modo di avete avuto modo di confrontarvi con i primi lavori di Exec. Thank you. Un suo carattere epico questo pezzo di Hexec e Baby Giant Squid viene da un'epoca, da una epoca epica che chiaramente si riferisce, insomma, a un certo modo di intendere il post punk legato soprattutto a Public Image Limited, e con certi lirismi disperati o altre volte in alcuni momenti evocatrici, come potrebbero essere stati, insomma, togliendo insomma quella parte dabbata, certe sonorità e certi lirismi Dead Can Dance, insomma, per citare la terra australiana dove provengono appunto Ex, ma ovviamente va da sé, insomma, a tutto il suono post-punk radicale, nel senso appunto originario di Joy Division e quanti altri hanno reso cupo e parlato insomma di una sorta di fine del mondo, parlando probabilmente di una fine del mondo legata a un Novecento che tranne insomma nei giochi di pastiche del postmoderno stava volgendo anche in una sorta di drammatizzazione tragica nei casi insomma più veri, ecco, e sicuramente quelle di Joy Division lo sono, anche per caratteristiche insomma legate alla biografia insomma tutto di Ian Curtis, e quindi quella tutto quella l'epica, sì, potremmo anche proprio definirla tale. Poi capisco che quando sta succedendo insomma da alcuni anni da questa parte, insomma, il discorso post-punk viene come dire utilizzato come genere, ma in momenti insomma veramente sperimentare con una certa attitudine che non è mai passata, poi per tanti versi ci porta insomma a forme radicali di intendere insomma il suono che nasce appunto come suono rock, ma poi diventa anche come dire anche una sorta di opposto, di negazione rock and roll dentro il post punk, quello appunto della fine degli anni 70, primi anni 80, quello insomma del famoso libro di Simon Reynolds, insomma, che appunto è dentro in maniera più o meno zombificata anche qua, anche dentro Ex, soprattutto del primo, facciamo così, periodo, e come d'altronde attraversa parte anche di un gruppo rock molto molto sui generis, come si può definire quello di Oneida, se pensiamo insomma a un gruppo che in alcuni momenti ha ripreso certe così idiosincrasie di Suicide, portandole verso magari anche i secondi Suicide, quindi più così synth pop, sempre se si possono considerare tali, ma forse in un certo qual modo il secondo disco di Suicide, altro capolavoro dopo il primo, lo è perlomeno insomma in termini di filiazione, quelle filiazioni che tanto hanno interessato 450 frammenti sonori, e spero insomma che tanto interesseranno ancora i 451 frammenti sonori, che non sono soltanto insomma spero ecco radiofonici, ma anche insomma più diffusi come attitudine alle musiche, a sentire e a farsi attraversare appunto anche da queste, portarle magari poi in una sorta anche di realtà di teoria resa poi prassi da qualcosa appunto che si vive poi. E Oneida, appunto, dicevo prima, hanno questa capacità di attraversamento sicuramente, sia per quanto riguarda appunto figure di riferimento come prima vi citavo Suicide, ma molto molto post-punk, su anche qua molto sui generis, se intendiamo appunto quella capacità del post-punk fine anni 70, primi anni 80, di sperimentare anche su caratteristiche poi rese, e quel appunto punk ci dà quell'indicazione anche esistenziali, politiche, perché no, visto che poi c'è anche questo aspetto politica anche qua molto molto sui generis, tant'è che insomma la capacità poi di unire e di fare insomma ad esempio un disco con Aris Chatham che usciva addirittura dal massimalismo musicale, quindi un suono lancinante di per sé, partendo appunto dalle sperimentazioni minimalistiche che poi diventarono con sia Aris Chatham che con Graham Branca un muro sonoro di grande impatto, che ha dato insomma una linfa incredibile a tanto rock, che partendo insomma da nomi citatissimi come Sonic Youth, ma attraversano buona parte poi di quello che è stato chiamato noise rock e quindi anche musiche che evidentemente non finiscono qua, ecco, se poi esistono ancora sia collaborazioni ma proprio anche attitudini sonore e non solo quelle, insomma, come accennavo prima, che vengono portate ancora avanti. E Oneida poi hanno anche forme di kraut, di massimalismo sonoro, che adesso appunto andiamo a trovare con anche questa capacità di rendere poi la canzone anche con quella come ex, se vogliamo insomma chiamarla canzone, quella ascoltata prima, Baby Giant Squid, ma forse lo sono insomma nel loro essere così disappuntate, come questo 451 frammenti sonori. Un'idea che andiamo a prendere da un triplo di qualche anno fa, che si ciba appunto di varie pietanze, non per forza immediatamente digeribili. Deutschland, Deutschland, cantava, sì, era proprio lui, se qualcuno si stava chiedendo e si sta ancora chiedendo se è Giovanni Lindo Ferretti, è proprio lui. E sì, un cerchio che evidentemente non si può chiudere, perché non lo vogliamo, insomma, chiuso, lo vogliamo decisamente, insomma, incompleto come chiusura del cerchio, insomma. E forse perché non ci interessa appunto chiudere un cerchio, probabilmente si chiuderebbe, insomma, non troppo bene, no? Perché appunto sarebbe una chiusura. E quella appunto di Kebab Traum, pezzo storico di Duff, che ci fa, insomma, percorrere soprattutto questa seconda ora, insomma, di 451 frammenti sonori, più legata a un suono evidentemente, insomma, post-punk, e così anche per mettere i puntini sulle i, insomma, rispetto a quello che è il suono originario, appunto, tra le musiche più incredibili di sempre, ecco, appunto, quelle del post-punk, ma anche per arrivare a una sorta di paradosso, probabilmente anche quella che citavo prima, la doppia negazione in Italia non esiste, anche se qualcheduno ancora ci prova a farla, ecco, sicuramente, insomma, il personaggio appena trasmesso, e magari appunto chiuderemo anche questa prima e ultima puntata di questa stagione di 451 frammenti sonori. La esercitate, la sta esercitando, insomma, la doppia negazione, ma appunto non è, diciamo, affermazione di nulla, appunto, in questo senso qua. E probabilmente il titolo così sbeffeggiante invece è proprio quello, insomma, altro che nuovo nuovo, ripescando appunto i CCP dell'83, quei CCP nati soprattutto a Berlino, quindi con riferimenti ovviamente a Duff e a quello che stava succedendo legato, ecco, in questo senso, veramente nel senso anche letterario, al post-punk con Duff e quant'altro, insomma, intendevano arroventata quella situazione e quella attitudine, ma anche per chiudere in una maniera, insomma, così appunto paradossale, anche rispetto appunto alla dedica a Matteo Babe Ferrari, appunto con insomma terre più o meno che si incrociano con quelle di Giovanni e anche Lindo, un po' per così chiudere e non chiudere, insomma, chiudere non chiudendo, semplicemente, insomma, abbassando i microfoni e salutandovi così darvi così un augurio di buona vita in generale, che non sappia troppo, insomma, di addio, speriamo che non sia, insomma, tale, ecco. E anche perché, insomma, se dovesse essere un addio, bisognerebbe, insomma, farlo in pompa magna, ecco, se no che diavolo d'addio è. E scusate, insomma, il bisticcio di parole, ecco. E tant'è che appunto chiudere con Emilia Paranoica ci porta, ci riporta, ma ci fa anche, insomma, come dire, poi perdere dentro situazioni che evidentemente, insomma, sono diventate paradossali se parliamo di CCCP, appunto, e senza dire altro, insomma, basta leggere, insomma, queste giornate di attraversamento, appunto, della storica formazione emiliana, che viene appunto più o meno dalle terre anche, appunto, di colui a cui abbiamo dedicato la trasmissione qua 451 frammenti sonori, appunto Babe, e quelle mia paranoica, però, che ha affiliato evidentemente non soltanto direttamente musicalmente, ma proprio anche in termini così forse inizialmente di riferimenti molto chiari, talmente talmente chiari che poi nel corso di tempo sono diventate delle sì, sorte di macchia, non per citarmi al plurale, ma che sono diventate delle macchie che poi evidentemente nel corso del tempo hanno dato insomma quelle sbavature e anche insomma derive poi personali, politiche e quant'altro, perlomeno insomma legate sicuramente agli emiliani paranoici, citando appunto immediatamente i CCP, ma non solo, appunto, spero che insomma in questo senso qua forse quello che aveva di muezzin di evocativo in termini appunto capacità così non so quanto volontaria, questo me lo sono sempre chiesto, e forse anche è un po' il gioco di tutta la faccenda legata a loro, questa capacità insomma o incapacità che diventa però tale rendere appunto qualche cosa che potrebbe ed è stata letta anche come slogan generazionale, poi qualche cosa invece che così è diventata poi di fatto una sorta di incubo perenne, ecco, produce e consuma crepa, ma soltanto per citarne una. E quindi una distopia che poi evidentemente non poteva che portare insomma una sorta di fine non finale, paradossale appunto. Come probabilmente anche questa, non lo so, non fatemelo dire, non lo so, forse è bene anche così. Per il momento appunto Max Macchia vi saluta e vi rimanda a un qualcosa, spero di specifico, non soltanto di così generico, ma se fosse anche tale andrebbe bene comunque. Ciao. in qualcosa che sia più grande di un 45 giri e sia un po' tardi, è proprio troppo tardi per credere in qualcosa, in una cosa qualunque, per credere in qualcuno, in un qualcuno qualunque. È già successo tutto, tutto è stato, non è più qui, non c'è, non è più qui, non c'è, non è più qui, non c'è. È proprio troppo tardi.